carina, graziosa bambina, come soffro! Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina, carina, allegra e spensierata sei carina, carina, ma con il broncio sempre ancor più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare. Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, graziosa, perché la tua boccuccia è deliziosa. Se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare. Carina, carina, carina tu sei fatta per amare. Carina.